Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono un uomo delle istituzioni, in attesa che sia appunto riconosciuta la mia innocenza, non posso che rispettare l'ordinamento e darò corso alle decisioni, ancorché le ritenga ingiuste, della magistratura. E questo era un Berlusconi ritornato in campo, visto che ama da sempre questa metafora, sceso in campo, risalito in campo, insomma è tornato, sembrava piuttosto in forma, soprattutto secondo quanto dicono i suoi parlamentari, e comunque ha dato così via ufficiale alla campagna elettorale di Forza Italia per le europee. Sapete che ieri c'era la scadenza, il termine scadevano per la presentazione delle liste elettorali per le europee, che si vota il 25 maggio, ve lo ricordo poi ogni volta qui a Effetto Notte con lo spazio dedicato all'Europa, ma ci sarà un ampio spazio dedicato questa sera a questa vicenda incredibile dello scambio di embrioni, ormai ufficiale, c'è stato veramente, si sono individuati anche i genitori biologici. Finora c'era stata una tesi in particolare su quello che potrebbe essere l'esito di questa vicenda, ma adesso si fanno diverse ipotesi e stasera, se non ci sono problemi di collegamento, mi collegherò con il più famoso ginecologo d'Italia, quello che è stato considerato il papà dei figli in provetta, dei bambini in provetta per quanto riguarda l'Italia. Quindi non perdetevi questo appuntamento e potete fare i vostri commenti, le vostre riflessioni su questo tema in particolare o sugli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Ma sentiamo com'è andata la giornata. E partiamo dall'Ucraina. Nel vertice di Ginevra è stato firmato un documento comune per uscire dalla crisi. L'invito è ad astenersi dalla violenza. Bonus nella bozza per le detrazioni sull'IRPEF, si parla di un taglio per il 2014 di 620 euro, previsti tagli alla sanità per 2,4 miliardi, approvato dalle Camere il documento di economia e finanza. Europei, Berlusconi presenta le liste di Forza Italia e dice è un piacere fare volontariato, ma la sentenza è stata ingiusta. Embrioni, lo scambio è confermato dal DNA, individuati i genitori biologici. Al Festival di Cannes l'Italia si affida alle donne con Alice Rockwacher e Asia Argento. E per quanto riguarda lo spazio, una notizia è arrivata da pochissimo, una specie di scoop spaziale, è stato scoperto dalla NASA un pianeta abitabile simile alla Terra, quindi i più coraggiosi o quelli più delusi, insomma, dalla vita sulla Terra, facciano pure le valigie. Cominciamo subito con le iniziative diplomatiche per la crisi ucraina, per meglio dire il vertice che c'è stato a Ginevra, dove sembrerebbe che Unione Europea, Stati Uniti, Russia e Ucraina abbiano firmato un documento comune, quindi un accordo, una vera intesa o una fragile intesa, Sergio Nava? Ciao Sergio. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Beh, chiaramente dovremo stare a vedere nei prossimi giorni, già nelle prossime ore, cosa accadrà, anche perché sul campo, sul terreno, anche oggi sono proseguiti episodi. Il più grave appunto questa mattina con 3 morti, ma anche durante la giornata è stata presa una TV ucraina per fare in modo che, questo nell'est del paese, dell'Ucraina, per fare in modo che venisse di fatto censurata da parte di militanti filorussi. Insomma, continuano gesti di provocazione, però dopo una giornata molto tesa, perché c'è stato, tra poco ci arriviamo, sia l'intervento di Vladimir Putin sia l'intervento di Barack Obama, sebbene con modalità diverse, finalmente il vertice di Ginevra tra Europa e Stati Uniti, la stessa Russia e Ucraina per la prima volta si sedevano allo stesso tavolo, ha prodotto questo documento che sostanzialmente dice che bisogna deescalare la crisi, cioè bisogna rasserenare tutto, eliminare le tensioni e cominciare da gesti concreti quali la dissoluzione di queste formazioni illegali paramilitari in Ucraina, spesso si sospetta che ci sia un'ampia mano russa dietro, un'amnistia per tutti i manifestanti antigovernativi che non si sono resi protagonisti di crimini. E altri punti quali la riforma costituzionale, la liberazione degli edifici occupati illegalmente, ma soprattutto l'astenersi dalla violenza. Su questo sia Russia sia Stati Uniti sono sembrati abbastanza d'accordo. Il segretario di Stato americano Kerry ha detto che appunto c'è fiducia nell'impegno da parte della Russia, anche il ministro degli esteri russo Lavrov è sembrato conciliante. Però va anche ricordato che oggi, come dicevamo prima, Vladimir Putin in un intervento televisivo ha detto speriamo di non essere costretti a usare la forza. Esatto, ma dimmi, scusa Sergio, per chiudere, dimmi sì. Una cosa, ma per caso Putin ha detto Obama e anche al presidente ucraino stai sereno, state sereni? No. Beh, diciamo che se l'avesse detto forse ci sarebbe stata una de-escalation automatica. Però ricordiamo una cosa importante: Obama ha autorizzato l'invio di materiale di armamenti, di materiale di esercito, insomma, bellico in Ucraina, purché non letale, cioè di fatto non vere e proprie armi, ma tutto ciò che in qualche modo può servire a un esercito. Quindi ha alzato anche lui un po' il livello. Vedremo però questo accordo cosa porterà. Speriamo ovviamente che calmerà effettivamente le acque in Ucraina. Grazie Sergio Nava. E così speriamo, ma torniamo in Italia intanto, dove i riflettori sono puntati sul Consiglio dei Ministri di domani, che deve approvare il decreto taglia IRPEF. Sentiamo quali sono le anticipazioni arrivate oggi. È un credito, in pratica un bonus, quello che sarà riconosciuto ai contribuenti per ridurre l'IRPEF. Sarà del 3,5% per i redditi fino a 17.714. Si attesterà a 620 euro, tra questo valore e 24.500 euro. E poi scenderà progressivamente fino alla soglia dei 28.000 euro. È quanto prevede una bozza del decreto ancora in lavorazione sull'IRPEF. Il bonus riconosciuto ai contribuenti salirà a 950 euro per la fascia tra i 19.000 e i 24.500 euro nel 2015, quando si spalmerà per l'intero anno. Sotto questa soglia il beneficio sarà del 5% sul reddito. L'aliquota principale dell'IRAP dovrebbe passare invece dal 3,9 al 3,5, ma nel 2015, mentre per quest'anno è prevista un'aliquota intermedia del 3,75%. I tagli alla sanità saranno di circa 2,4 miliardi di euro in due anni. Le risorse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale saranno dunque ridotte di 868 milioni quest'anno e di 1,5 miliardi dal 2015. Sempre secondo la bozza, il testo definitivo lo sapremo domani. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Varie cose sapranno domani, nei prossimi giorni, insomma. E Camera e Senato oggi hanno intanto dato il via libera al documento di economia e finanza, così Vincenzo Miglietta. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Vincenzo. Un voto finale, Roberta, senza sorprese, quello in Parlamento, ricordiamo un po' i numeri, 156 sì al Senato, 348 alla Camera, occhi puntati soprattutto sullo slittamento del bilancio strutturale al 2016, sappiamo che il bilancio è attualmente da poco tempo nella nostra Costituzione, affinché vi fosse stato questo slittamento era necessario addirittura una maggioranza assoluta che è arrivata sia al Senato che alla Camera. Il perché di questo rinvio? Ufficialmente il ministro dell'economia Padoan ha detto abbiamo la grana, il nodo dei debiti della pubblica amministrazione da restituire alle aziende, è un fardello che non ci permette quest'anno di raggiungere questo pareggio di bilancio. Ma possiamo ascoltare anche le parole del ministro proprio su questo punto. Sentiamo. La ripresa economica ancora fragile si associa a condizioni di liquidità delle imprese ancora lontane da livelli accettabili. La situazione del mercato del lavoro rimane molto difficile. Molto difficile. Ecco, assolutamente, sentiamo quindi le parole del ministro che traccia una ripresa, lui la definisce fragile e quindi fa capire non consente comunque il prodotto interno lordo quest'anno di contrastare, comunque di pagare e di comprendere al suo interno questo pagamento che l'Italia ha. E Padoan ha comunque ricordato che il pareggio di bilancio sarà comunque conseguito nel 2016 e che il cammino virtuoso comunque del nostro paese non è da mettere in dubbio questo nei confronti delle autorità di Bruxelles. E poi Roberta, un altro elemento molto importante della giornata di oggi, lo ricordiamo, il via libera della Commissione Lavoro della Camera al famoso decreto che ricordiamo è quello sui contratti a termine, sull'apprendistato. Una riduzione della possibilità di rinnovare sempre il contratto a termine, no? Mi pare ci sia stato. C'è stata la novità solamente però a firma del Partito Democratico e qui c'è stata una polemica con il nuovo centrodestra proprio perché vi è la riduzione da 8 a 5 del numero delle proroghe per i contratti a termine nell'arco dei 36 mesi. E qui il cammino mi sa che è ancora abbastanza lungo, insomma, per arrivare a un provvedimento definitivo, no? Qui il cammino è lungo. lungo, da domani il testo sarà in aula, ma già si preannunciano emendamenti dal nuovo centrodestra, per esempio, se non poi dall'intera opposizione. Ci sarà battaglia. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. Ciao Vincenzo. Passiamo alle elezioni europee. Ieri scadeva, vi dicevo, il termine per il deposito delle liste, oggi il ritorno appunto in campo di Berlusconi. La condanna è ingiusta, ma svolgerà con piacere l'assistenza agli anziani, lo assicura Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione delle liste di Forza Italia alle europee. Il Tribunale di Sorveglianza mi ha invitato a dedicare parte del mio tempo ad aiutare delle persone che sono in difficoltà. Devo dire che questa cosa mi ha fatto addirittura piacere, perché io nella mia vita ho fatto sempre delle attività di supporto a chi ha bisogno. Il Cavaliere ribadisce il sì al patto con Renzi sulle riforme, svela anche di aver accennato al Premier l'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ma il Cavaliere insiste anche sul fatto che la riforma della giustizia è la riforma delle riforme e sarà tema della campagna elettorale. Riguardo invece all'Europa, Berlusconi vuole eliminare il Fiscal Compact. Ci sono tutti i trattati da rivedere. C'è da rivedere il patto di stabilità. C'è da rivedere o addirittura da annullare il Fiscal Compact. Non manca la nota di colore con il kit del candidato e quella polemica di 4 colpi di Stato negli ultimi 4 anni, ovvero per i governi non eletti dal popolo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da settimane si parla, per quanto riguarda l'Italia, dell'imminente accordo con la compagnia araba Etihad, ma ci sono ancora dei punti da chiarire, quindi anche qui la vicenda non si è conclusa. Lo scambio di embrioni, vi dicevo, si è trattato di un errore umano all'ospedale Pertini di Roma, ora è chiaro, per una quasi omonimia tra i cognomi delle coppie, così ha confermato anche la ministra Lorenzin. Però, come dicevo, tra poco poi affronteremo questa notizia che tanto sta facendo discutere. E poi lo smantellamento della Costa Concordia. I primi di maggio sarà definito il porto dove sarà smantellata la Costa Concordia, naufragata all'isola del Giglio 2 anni fa. Potrebbe anche non essere un porto italiano per questioni di costi, si parlava della Turchia. Adesso passiamo ai riti di Pasqua e al Papa. C'era anche un musulmano tra i 12 pazienti ospiti della Fondazione Dognocchi a Casal del Marmo, nella periferia romana, a cui Papa Francesco, inginocchiandosi ogni volta, ha lavato i piedi in occasione della messa che il Giovedì Santo ricorda l'ultima cena. Di età compresa tra 16 e 86 anni, i pazienti sono affetti da diverse patologie neurologiche e oncologiche. Nell'omelia il Papa ha detto che dobbiamo essere tutti servitori gli uni degli altri e il gesto della lavanda dei piedi è l'emblema di questo impegno, che ha ribadito anche nella messa celebrata nella mattina nella Basilica di San Pietro, dove ha parlato lungamente di come i sacerdoti devono avere come sorella la povertà. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. E a proposito di Pasqua, traffico sostenuto, come si può immaginare, per le vacanze pasquali, previsto sole al sud, piogge al nord, spostamenti preferibilmente in auto e immaginate un po' che cosa succede quando ci sono i cosiddetti esodi, un grande classico, aumentano i prezzi dei carburanti. Ponte Pasquale alle porte e rincari dietro l'angolo, come da copione, solo che questa volta i ponti saranno 3, uno via l'altro, e i conti bisognerà farli alla fine. Conti che riguardano i carburanti. Le accise da una parte e i rialzi delle compagnie dall'altra porteranno il pieno ad essere più costoso, anche fino a 13-15 euro. Gli aumenti scatteranno con la giornata di sabato, giusto in tempo. 0,24 centesimi di euro di accise previsti nell'agosto del 2013 come copertura finanziaria per il decreto del fare. L'aumento, che dovrebbe rendere allo Stato 75 milioni, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre, dopodiché andrà in pensione. Ritocchi anche da parte delle compagnie. Eni ha rivisto al rialzo i prezzi dei carburanti di 1,5 centesimi di euro al litro per la benzina e di 0,5 centesimi di euro al litro sul diesel. Ad Eni si sono subito accodate anche le altre compagnie, con aumenti più o meno variabili: Shell, Esso, IP, Kuwait e Tamoil. Imbizzarrite le associazioni dei consumatori, che però possono contare sul fatto che, grazie all'enologo e alle pompe della grande distribuzione, i prezzi dei carburanti si sono notevolmente abbassati nell'ultimo anno e mezzo, rimanendo in media più bassi degli anni precedenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere una notizia di cinema, anche di questo parleremo più tardi. Cannes, Festival di Cannes, dove l'italiana Alice Rohrwacher sarà in concorso al Festival del Cinema nella sezione Un Certain Regard. Ci sarà anche Asia Argento con il film Incompresa, vi dicevo, però ne parliamo dopo. Invece affronteremo tra poco la vicenda incredibile dello scambio di embrioni con un famosissimo ginecologo e anche ricercatore, scienziato. E intanto però viabilità. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo tra poco le notizie più importanti di oggi, vi ricordo che tra queste c'è sempre la vicenda dello scambio di embrioni con delle ultime novità che sono arrivate e tra poco ne parleremo, ma prima i fatti di oggi. Ucraina, nel vertice di Ginevra è stato firmato un documento comune per uscire dalla crisi, l'invito è ad astenersi dalla violenza. Bonus nella bozza per le detrazioni sull'IRPEF, si parla di un taglio per il 2014 di 620 euro. Europei, Berlusconi presenta le liste di Forza Italia e dice è un piacere fare volontariato, ma la sentenza è stata ingiusta. Vi dicevo gli embrioni, lo scambio è confermato dal DNA, individuati i genitori biologici. Al Festival di Cannes due donne ci rappresenteranno, sono Alice Nockwacker e Asia Argento. E poi la scoperta da parte della NASA di un pianeta abitabile simile alla Terra, c'è già un ascoltatore su una pagina Facebook di Effetto Note che scrive ma si paga l'IMU o la TARES altrimenti ci andrei subito. E invece siamo su questa terra dove gli uomini anche sbagliano, ci sono errori umani. Adesso è ufficiale, c'è stato effettivamente lo scambio di embrioni all'ospedale Pertini di Roma ed è avvenuto per due delle cinque coppie coinvolte nel caso. E a dirlo oggi è stata la relazione della commissione interistituzionale presieduta dal genetista e rettore dell'Università di Tor Vergata Giuseppe Novelli. Questo esame del DNA che ha ricostruito i profili genetici degli embrioni per risalire ai genitori biologici ha dato appunto esito positivo, effettivamente ha confermato l'incompatibilità genetica tra questi embrioni e la mamma che sta portando avanti la gravidanza e quindi i genitori. E l'errore probabilmente è causato da una somiglianza molto forte dei cognomi delle coppie coinvolte. Dunque una donna porta in grembo due gemelli non suoi, figli biologici della seconda coppia, in cui invece gli embrioni, anche questi scambiati, non avevano attecchito. Ma tra l'altro non si tratta della coppia che ieri o l'altro ieri aveva sporto denuncia, no, è ancora un'altra coppia. Insomma, una situazione estremamente complessa, uno scenario che in Italia, sì, ci sono dei precedenti, leggevo, che comporta talmente tante riflessioni e necessità di soluzioni da un punto di vista etico, legale, come possiamo dire, psicologico anche, che bisognerà capire adesso come ci si dovrà comportare. Ci sono state, noi abbiamo avuto qui a Effetto Notte alcune sere fa la costituzionalista Marilisa D'Amico che ha detto i figli spettano a chi li partorisce, così dice anche il giudice costituzionalista Santuosso, dice la stessa cosa, però invece pare che si profilino attraverso vari esperti di bioetica e giuristi tre possibilità: o l'affido ai genitori biologici, quindi quelli a cui appartengono gli ovuli, gli spermatozoi, o oppure darli a chi partorisce, come è stato detto finora, oppure creare una famiglia allargata. Allora, su questo saluto Carlo Flamigni. Buonasera, professore. Buonasera a lei, buonasera. Carlo Flamigni, famosissimo, il più famoso ginecologo d'Italia, probabilmente. Diventato celebre soprattutto come il ginecologo dei bambini in provetta, perché insieme a Ettore Cittadini è il padre dei figli in provetta in Italia. Professore universitario a Bologna fino al 2008, autore di moltissime pubblicazioni scientifiche sull'infertilità, poi un instancabile divulgatore della sua materia. Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e socio onorario della Consulta di Bioetica. E saluto Fabrizio Quattrini, professore, buonasera anche a lei. Sì, salve, buonasera. Psicologo, sessuologo, presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica. Allora, professor Flamigni, lei di fronte a questo caso che cosa ha pensato in questi giorni dall'alto della sua esperienza? Ho pensato, eccoci di nuovo, perché ci sono stati in tempi già oramai abbastanza lontani due episodi abbastanza simili. E poi io sono abbastanza vecchio da ricordare i tempi in cui si scambiavano bambine, insomma. Nella culla questo di però, timore, no? Timore generale delle donne che dicevano io non vado in ospedale perché chissà poi se mi danno il mio bambino. Quindi l'errore in qualche modo è sempre aleggiato su queste cose, ma il timore dell'errore era così forte che le linee guida che sono state costruite, se fossero seguite, lascerebbero uno spazio sì all'errore, ma veramente uno spazio modestissimo. Temo che ci siano circostanze in cui la carenza di personale fa in modo che queste linee guida non possano essere seguite. A mio avviso un medico, un biologo si dovrebbero rifiutare di lavorare in quelle circostanze, però il lavoro delle volte è più importante della paura. Le faccio un esempio: tutto quello che viene fatto da un biologo per l'accertamento del materiale biologico, tutte le volte che questo è finalizzato a qualcosa di irreversibile, viene fatto in doppio, ci deve essere un altro biologo testimone, tutti e due parlano ad alta voce, leggendo ad alta voce quello che leggono, quello che trovano scritto. Cioè gli errori nelle altre circostanze sono stati dovuti a cose assolutamente straordinarie. Lei pensi che a Modena ci fu, mi consente di dire, un imbecille che doveva buttare via una provetta e che invece non la buttò. Ecco, il materiale che si usa in questi casi si chiama disposable, perché se ne deve disporre, deve essere sempre buttato via una volta utilizzato. Non lo fece, rimasero degli spermatozoi di una persona, tra l'altro di colore, che fertilizzano, sai, uno spermatozoo. Ah, sì, sì, sì, avevo letto di questo. Vede un uovo. Certo. E quindi, insomma, questa volta probabilmente si è stati un po' superficiali, è possibile. Quello che trovo sbagliato è fare di un caso come questo un motivo esemplare, no? Chiamarlo testimone del fatto che, mio Dio, la tecnica è immune da difetti, la tecnica è quello che è, siamo noi che la utilizziamo che sbagliamo, la tecnica non c'entra niente. Ma quindi, da una parte, inadeguatezza del centro di fecondazione in questione, dice il professore. Dall'altra, dice, non demonizziamo questa pratica perché può capitare, come capitano errori in altri campi della vita. Però lei che cosa farebbe a questo punto? Siccome appunto quello che farei io non piace a nessuno, perché io non sono assolutamente interessato alla genetica. Per me il genitore è quello che si occupa dei bambini. Io credo che un bambino possa anche crescere malamente se cresce fra due madri che lo strattonano da una parte e dall'altra. Può capire invece, anzi, può capire che gli è raddoppiato l'amore genitoriale se entrambe lo trattano come figlio e una gli dice io ti ho cresciuto nel mio grembo e l'altra gli dice tu sei figlio del mio uovo. Io vedo con grande favore, non so se hai mai sentito parlare degli utteriti, che vivono una società che vive con un'organizzazione di tipo comunista in Canada e negli Stati Uniti, sono dei cristiani anabattisti che lasciarono l'Europa nel 600. Lì gli adulti sono genitori dei bambini, che è la cosa più bella alla quale posso pensare. Quindi quello che queste persone coinvolte, io capisco la loro sofferenza, capisco tutto, ma dovrebbero mettere in cima ai loro pensieri i bambini e decidere qualcosa, e si possono fare consigliare da uno psicologo per farlo, che non disturbi la loro crescita, che non li rattristi, che li faccia sentire ancora più amati di quello che un bambino si sente in genere. Difficile soluzione, ma lo psicologo è qua, è appunto il professor Fabrizio Quattrini. Sì, ma io l'ho sentito, quindi infatti, ho rilanciato la palla. Bene, bene, e infatti siamo in sintonia, siamo in squadra. Professor Quattrini, che cosa... Sì, no, assolutamente d'accordo, anche perché in effetti spesse volte non si va a pensare ai bambini che poi invece sono i diretti interessati, no, a quello che poi è il risultato del loro crescere, del loro diventare a sua volta adulti. Quindi in questo caso effettivamente la cosa importante sarebbe quella di riuscire a trovare la giusta soluzione per gli adulti affinché i bambini possano riuscire a crescere sani e sereni all'interno comunque di un nucleo o anche di un nucleo allargato rispetto a quelle che sono appunto le famiglie. Questo è molto importante in effetti. Quindi lei propenderebbe anche lei per la famiglia allargata, che è una delle tre ipotesi possibili, quindi o affido ai genitori biologici, cioè quelli di cui sono gli ovuli e gli spermatozoi, oppure ai genitori che stanno portando avanti la gravidanza, o la famiglia allargata, però al di là giustamente dell'interesse dei bambini. Ma lei come sosterrebbe psicologicamente sia la madre e anche quindi il padre che stanno portando avanti la gravidanza, andranno avanti per 9 mesi con questi bambini, soprattutto la donna dentro di sé, e gli altri genitori, quelli che sanno che questi figli gli assomiglieranno dentro e fuori, come li sosterrebbe? Certo, ma allora intanto sicuramente un percorso psicoterapico e quindi di supporto diventa fondamentale. Quello che mi viene in mente è che ad oggi in Italia sicuramente siamo come al solito un po' indietro rispetto a quello che potrebbe essere proprio anche la cultura, no, dei cambiamenti. Questo è un cambiamento importante e fin tanto che non viene accettata una situazione come in questo caso sarebbe il famoso utero in affitto, quindi comunque il fatto che ci sia una donna che porta in grembo un feto e quindi poi nascerà un bambino di un'altra, no, donna. Se non c'è questa cultura, il rischio che diventa tutto molto complicato. La sensazione è che il supporto diventa importante per far capire le differenze, per far capire che si può dare amore, si può in qualche modo ritrovare un certo tipo di sintonia, si può essere madri, si può essere padri, tutti elementi che si danno per scontati e invece poi così scontati non sono. Mi viene in mente il fatto che a volte si parla di maternità intesa come istinto materno e io spesso rimando l'importanza invece di costruire certi aspetti legati alla maternità e alla stessa paternità, e sono tutti elementi che se non vengono educati e rieducati all'interno di una cultura e delle differenze che possono nascere in quella nuova cultura, il rischio è che si rimane agganciati agli stereotipi e lì non si fa nulla, insomma. Leggo uno dei messaggi che stanno arrivando. Letizia dice: credo che la cosa migliore sia quella che i genitori si tengano i bambini che hanno in grembo senza fare scambi che potrebbero creare loro traumi, e dice: aggiungo che esistono delle modifiche del DNA che avvengono nel grembo, quindi comunque una componente genetica viene anche dalla madre non biologica. No. È vero, Flamini? No. Ah. Anche se li nutre col suo corpo, questo è quello che mi dicono le madri che hanno avuto un bambino con una donazione di ovociti. Lui mi ha dato 2 cellule, faccio un bambino di 3,5 kg, ma il genoma è un altro, insomma. No, non è così, però dovrebbe essere. Lei ha scelto 2 persone che la pensano allo stesso modo, mi dispiace, non possiamo litigare. Io credo, ho scelto migliori, posso diciamo. Dirle una cosa? Prego, c'è prego. Una profonda modificazione del sentire comune su questi temi. E la regola, in qualche modo, la regola morale, la dottrina anche, persino la dottrina, si costruiscono sulle modificazioni della morale di senso comune, si modificano, non è alito del demonio, è buon senso. Certo. Quindi quello che ieri poteva sembrare una cosa strampalata, assurda, inaccettabile, oggi la si guarda con maggiore attenzione, persino il linguaggio cambia, trasformare un affitto d'utero in un dono del grembo è una cosa possibile ed è anche una cosa virtuosa. No, devo dire che tutte queste cose sono anche queste riflessioni appassionanti, no? Appassionanti nel senso di passione in generale, quindi diciamo in sentimenti di gioia, ma anche di angoscia e anche di sofferenza per chi si troverà, perché si troveranno. Ma è chiaro che non dovrebbero accadere, ma sono accadute, bisogna in qualche modo trovare modo di accettarle senza morti e feriti. C'è Massimo che scrive: credo che bisognerebbe mettere un freno alla manipolazione che investono sfere giuridiche, morali ed etiche, l'errore umano non deve mai incidere, questo senz'altro non dovrebbe incidere. Vabbè, però si diceva non strumentalizziamo, ecco. E poi Raff dice: non c'è molto da riflettere, secondo la legge italiana i figli sono di chi li partorisce, le conferma. Sì, però io voglio dire, l'errore umano, io me lo ricordo personalmente un caso in cui partorirono 2 donne in un momento di grande confusione in ospedale, facevamo 20-25 parti al giorno, si può immaginare, con personale che era assolutamente inadeguato, e io mi accorsi per caso che erano stati cambiati 2 bambini e ho avuto i guai miei a ricondurli nelle braccia giuste. C'era una delle madri che diceva: è matto, assomiglia tutto mio suocero, ma vorrà scherzare, ma mi state imbrogliando. L'amore, malato, gli occhi dell'amore, figlio, come fanno vedere. Allora c'era solo il gruppo di sangue sul quale fare queste valutazioni. Addirittura c'è un'indagine fatta in Francia molti anni fa sui gruppi che aveva dimostrato che il 14-15% dei secondogeniti non è figlio del padre. Allora si immaginava che una parte fosse qualche piccolo gioco sessuale all'interno della famiglia che non è andato a buon fine, ma che ci potevano essere degli errori. Allora, essendo secondogenita, devo verificare anche questa cosa. Sì, lo so che questo crea qualche problema, non capisco perché, però. Beh, insomma, comunque staremo, non è sicuramente una situazione facile, e devo dire che è uno di quelle vicende, come abbiamo detto, che generano un grande interesse e la capacità anche di immedesimarsi ognuno con la propria posizione. Ma è il momento di mostrare che siamo esseri umani dotati di compassione, è quello che ci distingue dagli altri mammiferi. Insomma, speriamo che vadano nella direzione meno traumatica per tutti. Grazie professor Carlo Flabigni, la ringrazio. Grazie molto. A lei. Grazie professor Fabrizio Quattrini. Grazie a voi. Grazie, a presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, mi leggevo intanto i vostri messaggi ed adesso prima vi ricordo quali sono state le notizie della giornata. Tagli all'IRPEF, bonus da 620 euro nel 2014, poi salirà a 950, sì al DEF, oggi c'è stato, e slittamento del pareggio di bilancio in Europa, il ministro Padoan dice la ripresa è fragile. Berlusconi inizia la campagna elettorale per le europee, contro i giudici dice una corrente con fini politici, la mia è stata una condanna ingiusta, Strasburgo l'annullerà ma la rispetto e confermo gli impegni sulle riforme. Per l'Ucraina accordo a Ginevra, bisogna disarmare i gruppi illegali, intanto Putin minaccia, dice qui c'è il rischio prima poi di poter usare la forza. Obama intanto invia aiuti a Kiev. Scambio di embrioni, ne abbiamo parlato poco fa, confermato questo scambio, trovati i genitori biologici, l'ospedale Pertini di Roma frena sulle fecondazioni e cambia il responsabile. Scoperto un pianeta gemello della Terra, può esserci acqua, annuncio della NASA. E saluto, non credo che sia in partenza per lo spazio, Salvatore Chicco Padule, essendo vice direttore del Sole 24 Ore, avendo molto da fare qua per il Sole. Ciao, sì, Chicco. Sono qui, buonasera. Senti, no. Chicco, allora parliamo sia del DEF e di questo rinvio, quindi, che sembra aver accettato Bruxelles, del nostro pareggio di bilancio, e poi di questi famosi 80-85 euro. Chiariscici tu, vedi, che cosa succede? Soprattutto questa forse è una delle cose che interessa di più chi ascolta. Sì, beh, insomma, velocissimamente sì. Sul DEF, in realtà, diciamo, oggi il Parlamento ha accettato questa proposta che il governo farà a Bruxelles di prevedere uno slittamento dei nostri obiettivi di bilancio per il prossimo anno. Quindi noi il prossimo anno 2015 avremmo dovuto arrivare a un bilancio in pareggio, quindi senza deficit. In realtà noi chiediamo a Bruxelles e comunichiamo una a Bruxelles deroga. Che lo faremo esatto l'anno successivo, vedremo poi Bruxelles. Per pagare i debiti per le pubbliche amministrazioni, no? Soprattutto. Per i debiti per le pubbliche amministrazioni, anche perché oggettivamente, insomma, se è vero che qualche piccolissimo segnale positivo sul fronte economico si vede, sappiamo però quanto, insomma, ci sia ancora molto da fare, quanto la ripresa sia fragile, soprattutto dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione. Un altro fronte strettamente legato a questo, però, insomma, domani prenderà forma, speriamo definitivamente, la vicenda degli sconti IRPEF che saranno concessi ai lavoratori dipendenti. Il governo, il presidente Renzi, ha più volte, insomma, annunciato che arriveranno questi 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti che hanno 1500 euro di busta paga netta. Domani vedremo bene i numeri, diciamo, qualche anticipazione era sul giornale di oggi e ce ne avremo ovviamente anche sul giornale di Milano di domani. Scusa. Fatto a Milano e anche domani, a Roma. Esatto, sì. Fatto a Milano, stavo pensando a Roma. E in realtà però, insomma, sappiamo che non tutti i lavoratori dipendenti prenderanno 80 euro al mese, perché questo sconto sarà, diciamo, modulare in funzione del reddito, quindi chi ha redditi più bassi di 1500 euro al mese prenderà un po' meno, a volte anche molto meno, e chi invece ha redditi superiori ai 28.000 euro all'anno lordi non prenderà nulla in più rispetto a quello che già oggi, agli sconti che attualmente sono previsti. Chicco Padula, spiegaci una cosa, perché molti me lo chiedono, mi chiedono, ma io vedrò scritto 80 euro nella busta paga, 80 euro in più, oppure sarà semplicemente che dalle imposte verranno detratti queste cose? Questa è una domanda interessante, perché effettivamente si era detto, e lo aveva detto proprio Renzi, no, che avrebbe voluto che in busta paga fosse indicata quella voce 80 euro di risparmio. Devo dire che dai testi normativi, che sono ancora bozze ovviamente, che abbiamo visto fino a questo momento, diciamo, questo elemento non emerge, però non è escluso che poi domani il Consiglio dei Ministri invece decida di inserire questa particolare voce che consentirebbe quindi a tutti i lavoratori dipendenti di capire a quanto ammonta il beneficio, lo sconto, il bonus che ricevono mese per mese. Se non sarà così, diciamo, finirà nel calderone di tutte le mille voci della busta paga, sarà un po' più difficile capire effettivamente qual è lo sconto che arriva a ciascuno. È decisamente meno gratificante. Comunque vediamo. Domani se chiariscono un po'. Bene. Grazie Salvatore Chicco Padula, buon lavoro. A voi. Ciao Chicco. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Si prosegue qui effetto notte, ma vi ricordo quali sono state le notizie principali. Sapete che ve le devo ricordare ogni tanto, si sa mai ve le dimenticaste o aveste acceso la radio in questo momento. Ucraina, nel vertice di Ginevra è stato firmato un documento comune per uscire dalla crisi. L'invito è di astenersi dalla violenza e disarmare le milizie. Bonus nella bozza per le detrazioni sull'IRPEF, si parla di un taglio per il 2014 di 620 euro. È stato approvato tra l'altro dalle Camere il documento di economia e finanza. Per le europee, Berlusconi inizia la campagna elettorale, presenta le liste di Forza Italia e dice: è un piacere fare il volontario, ma la sentenza è stata ingiusta. Sullo scambio di embrioni è confermato questo scambio dal DNA, sono stati individuati i genitori biologici. Per il Festival di Cannes l'Italia si affida alle donne con Alice Rockwacker e Asia Argento. E poi per lo spazio, ve lo dicevo, è stato scoperto dalla NASA un pianeta abitabile simile alla Terra. E adesso Europa. Europa 24 notte. Con qualcuno che non è su un altro pianeta abitabile, ma piuttosto lontano, credo, da noi fisicamente. Giuseppe Porcaro, buonasera. Sì, salve, buonasera. Dal Giappone, sbaglio? No, in realtà sono appena tornato a Bruxelles. Ah, Bruxelles, ecco, allora siamo più vicini, perché l'ultima volta Giuseppe Porcaro era in Giappone, segretario generale del Forum Europeo dei Giovani, cioè questo Forum Europeo dei Giovani, che ha lanciato una provocazione nei giorni scorsi per combattere l'astensionismo, magari soprattutto appunto di chi ha un'età piuttosto verde, che ancora meno riesce a essere coinvolto nelle faccende europee, no Porcaro? Di cosa si tratta? Sì, assolutamente. Abbiamo lanciato questa campagna qualche mese fa sotto l'egida di una fantomatica alleanza per la democrazia responsabile, che chiedeva di alzare l'età di voto a 25 anni. È stata un po' una provocazione che qui a Bruxelles ha dato spazio a qualche polemica, come puoi immaginare, e che proprio qualche giorno fa si è trasformata in realtà in una chiamata per incitare i giovani ad andare a votare nell'ambito della nostra campagna per le elezioni europee. Quindi hanno aderito in molti a questa cosa? Cioè avete sensibilizzato sulla necessità, sul diritto dovere di andare a votare per le europee? Sì, allora quello che è successo con la campagna, diciamo la finta campagna, è successo che ci sono state molte reazioni da parte di anche figure del mondo politico qui a Bruxelles, che si sono schierate contro questa campagna di alzare il voto a 25 anni. Non solo figure politiche, ma anche ragazzi di tutta Europa che hanno cominciato a reagire indignati da una proposta del genere. E questo ha portato conseguentemente a una visibilità quando il messaggio è cambiato e abbiamo rivelato che in realtà era qualcosa. Era una bufala, era una provocazione. Era insomma. Una bufala, una provocazione, esattamente. E adesso che obiettivo vi date, a parte questa provocazione, Giuseppe Porcaro, quindi per evitare l'astensionismo il 25 maggio? Allora, adesso concretamente stiamo lanciando tutta una serie di iniziative. In primis stiamo organizzando il primo dibattito televisivo in diretta con i candidati alla presidenza dell'Unione Europea, che accadrà il 28 aprile, quindi lunedì prossimo, in diretta su Euronews, la sera, dall'Università di Maastricht. E la particolarità di questo dibattito è che le domande ai candidati alla presidenza della Commissione Europea sono state tutte quante raccolte attraverso un sistema aperto tra ragazzi dell'università, su internet e tra le organizzazioni membri del Forum Europeo della Gioventù, e quindi saranno delle domande non fatte dai giornalisti professionisti, ma delle domande che provengono dalle richieste e dai bisogni raccolti dai giovani in tutta Europa. Quindi questa è una prima iniziativa molto importante che stiamo per fare. E poi lanceremo a breve uno strumento per in maniera totalmente bipartisan e non schierata e neutrale analizzare i manifesti dei partiti politici europei e in questa analisi praticamente fornire uno strumento ai giovani per fargli capire che cosa i vari partiti politici dicono rispetto a quegli argomenti, a quelle questioni che li riguardano più da vicino. E la cosa interessante di questo strumento è che sarà disponibile online per tutti e analizzerà non soltanto i manifesti a livello europeo, ma anche i manifesti elettorali a livello nazionale. Quindi buon voto e che vinca il migliore. Speriamo appunto che non ci sia astensionismo e che ci sia coinvolgimento da parte dei più giovani in una cosa che spesso si sente molto distante. Grazie allora e buon lavoro Giuseppe Porcaro. Grazie mille, buonasera. Grazie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E a questo punto saluto uno dei critici cinematografici più autorevoli, se non il più autorevole di tutti, Paolo Mereghetti del Corriere della Sera. Ciao Paolo. Buongiorno, lasciamo stare l'autorevole o meno. Ti ho presentato bene, l'autorevole, vabbè, insomma, il nome parla da sé, di Paolo Mereghetti. Senti Paolo, la cosa buona per l'Italia è che ci sono a Cannes, innanzitutto in gara per la Palma d'Oro, quindi per il massimo riconoscimento alla 67esima edizione del Festival di Cannes, c'è una regista, in realtà poi sono due donne e due registe, c'è Alice Rohrwacher, ho pronunciato bene? Perfettamente, molto bene. E poi c'è Asia Argento, però lei per la categoria Un Certain Regard, che è un po' un premio della critica, no? Una cosa... è una sezione ufficiale, quindi come dire sempre selezionata dal Festival di Cannes, non una sezione parallela come la Kenzen, e devo dire che ultimamente anche Un Certain Regard aveva i suoi titoli di nobiltà, non è proprio soltanto un contentino per la critica, anche lì si vedono film decisamente belli e importanti. Certo, ad arrivarci, insomma, questa Asia Argento, ma prima parliamo di Alice Rohrwacher, che non è proprio, come possiamo dire, un esordiente totale né nel cinema e neanche a Cannes, no? Che aveva fatto Corpo Celeste. Aveva fatto già un film, Corpo Celeste, la sua opera prima, e però era stata selezionata nella Kenzen e aveva avuto molti riconoscimenti dalla stampa francese. Non è la prima volta che giovani autori italiani vengono, come dire, difesi dalla critica francese. L'anno scorso è successo con Salvo, il film che ha vinto la settimana della critica e che era un film italiano anche quello, e quest'anno un po' a sorpresa, ma forse non al 100%, Alice, che è la sorella di Alba Rohrwacher, che tra l'altro è la protagonista del film Le Meraviglie, che sarà presentato, che a Cannes, questo titolo, Le Meraviglie, è stato infatti selezionato per il concorso accanto a numeri uno come Jean-Luc Godard o il fratello Lee Dardenne, Olivia Assayas, Ken Loach, Mike Lee, mica scherzi, Bruscolini. Senti, ma tu hai avuto modo in esclusiva, come voi fate i critici, lo vedete mesi prima, hai avuto modo tu di vedere questo film? No, assolutamente, il film non è ancora pronto, sta terminando il missaggio del sonoro e so che dovrebbe essere pronto proprio qualche giorno prima del Festival di Cannes. E quindi i critici per selezionarlo addirittura vanno lì quando è ancora in lavorazione, neanche è finito praticamente. Ormai i festival si fanno così, sempre più spesso si fanno così. I direttori di festival, come dire, hanno un certo fiuto, riescono a intuire delle cose e vedono dei film ancora non perfettamente finiti. Poi avranno visto un primo montaggio che spiega, che fa capire come va il film, ma la versione definitiva non è ancora pronta. Su questo posso mettere una mano sul fuoco. Quindi Le Meraviglie, vedremo se sono delle meraviglie, per l'appunto lo speriamo e ce l'auguriamo per Alice Rohrwacher. Invece Asia Argento, dicevamo, è nell'altra sezione, Un Certain Regard, e è anche lei, insomma, da un po' anche da attrice si sta dando da fare anche come regista. In questo caso si chiama Incompresa il suo di film. E tra l'altro, da quello che si può sapere, anche questo è un film che nessuno ha visto, almeno diciamo dalla stampa italiana, è una storia molto autobiografica, perché racconta la storia di una bambina di 9-10 anni, figlia di due artisti che stanno, come dire, che sono sul punto di separarsi, e le difficoltà psicologiche di questa bambina. Un po' biografico, mi sembra. E Asia Argento, quando aveva 9-10 anni, aveva il papà e la mamma, Dario Argento e la Niccolodi, che stavano appunto separandosi. Quindi, voglio dire, penso penso che sia, Asia Argento ci ha un po' abituato ogni tanto con delle uscite o con delle esternazioni, come si dice, un po' sempre sul limite della provocazione, diciamo. Come regista è molto più controllata, e ultimamente anche come attrice, racconta spesso dei personaggi, come dire, che si portano dentro dei dolori, delle angosce con cui fanno i conti, e mi sembra che questo film sia su quella linea, ecco. Grazie Paolo Meneghetti. Grazie a voi. Grazie, ciao, buon cinema. Ciao Paolo. Ciao. Ecco, adesso quindi un po' di spazio anche ai vostri messaggi, anche se vedo una notizia, un'agenzia di pochi istanti fa, sempre a proposito della crisi ucraina, Obama dice c'è solo una chance di intesa diplomatica, e qua o quella, o altrimenti davvero l'uso della forza e l'escalation, come si dice, che ne può derivare. Poi leggo un messaggio di un ascoltatore, dice si pronuncia Padoan, guardate che io lo dico alla veneta, però pare che il ministro dell'economia Padoan abbia detto voglio essere chiamato Padoan, non so, ognuno ha le sue preferenze evidentemente. Poi Alessandra, che le fa una cosa di pronuncia, no? Si chiama Rohrwacher, non Rohrwacher, vabbè, lì c'è pronuncia italiana, certamente, insomma, a volte può anche in mille cose che si dicono scappare la piccola imperfezione. Poi dice Anna, sarò controcorrente, ma chi non può avere figli dovrebbe rassegnarsi e dedicarsi ad altro, così tutto sto casino non sarebbe successo. Anna, facile a dirsi, ma per chi ha questo fortissimo desiderio di maternità e anche di paternità, insomma, sto leggendo tra i vostri sms e la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi invece Marina da Milano torna sulla campagna elettorale di Berlusconi, dice di essere stato invitato a prestare servizio agli anziani per scontare la condanna e caro Roberta sono perplessa, non feste porno ma cene eleganti, non prostitute ma escort, non carcerati ma invitati, ma vorrei aggiungere, dice Marina, che esprimersi in questo modo è offensivo per chi in carcere ci sta veramente, in quale condizioni. Poi Roberto, vorrei vedere questi dottori, se i figli coinvolti fossero i loro, vorrei proprio vedere se vorrebbero una bella famigliola allargata con altri adulti. Marco, ma di cosa parliamo? La madre è quella che si fa crescere in grembo i bambini nella propria casa, il bambino non un ovulo è soltanto una cellula, allora con lo stesso criterio un genitore che dona un organo di un figlio potrebbe accampare diritti sul trapiantato. È una questione un po' diversa, comunque è sicuramente una vicenda delicatissima che appassiona un po' tutti potremmo trovarci in questa situazione, anche se non ci troviamo ci mettiamo nei panni. Vi saluto e ci sentiamo tra poco.